got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare non a vanvera contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Eccola qui la voce di Spencer Tracy, il protagonista indimenticabile di un film di quasi mezzo secolo fa, Indovina chi viene a cena, dal quale prendiamo spunto per il nostro programma. I temi del programma, come quelli del film, sono i pregiudizi razziali, l'integrazione fra culture, che restano attuali anche se noi pensiamo che si possano superare, come a tavola superiamo a volte certe nostre avversioni. Può capitare di avere un pregiudizio verso lo zenzero e poi scoprire di non poterne fare a meno. Insomma, a tavola, come nella società e nella vita, i gusti cambiano. Parliamo quindi di cucine e ricette per raccontare i nuovi italiani. Mi scuso innanzitutto con gli ascoltatori per la voce rauca di questa primavera che non arriva, ma prima di presentarvi chi viene a cena stasera a Radio 24, vi faccio sentire la sua voce. E se poi capissi sentissi inutile, io non ho mai pensato se anche l'abitudine è un bel posto per ritrovare me. Insomma, l'avrete sicuramente riconosciuta, io ho l'onore, perché sono una sua grande fan, di avere ospite Malika Alian. Buongiorno, buon pomeriggio. E buon pomeriggio. Cantautrice italiana famosissima ormai, sono onoratissima di averti ospite. Sei nata a Milano e per questo ti ospitiamo, perché sei nata da mamma italiana e papà marocchino. Sì. Quindi sei proprio una nuova italiana. Ma no, io sono italiana, cioè, non da lo so, sempre. Io, a me fa venire il prurito il termine nuovo italiano, però sono italiana da sempre, cioè sono una di quelle fortunate che, avendo uno dei due genitori italiani, non ha mai avuto problemi di documenti. Di documenti, soprattutto sono talmente milanese che ho un accento fortissimo che a volte riesca di essere anche imbarazzante. E infatti io ti identifico sempre con Milano per tante cose, non necessariamente per l'accento, un po' perché la tua propensione mi sembra così ad atmosfere milanesi, design, moda, sei sempre molto glamour, posso dire? Mi ricordi molto Lavanoni, queste grandi cantanti milanesi, appunto. Tu ti senti molto milanese? No, ma io lo sono di fatto, cioè sono nata qui e Milano è la mia città, e peraltro la famiglia di mia madre è milanese, ma proprio tanto milanese, nel senso che diciamo che l'albero genealogico è stato interrotto proprio con il matrimonio di mia madre con un uomo di Meknès. Com'è stato da piccola avere un papà straniero e una mamma italiana? L'hai mai vissuta come una cosa così che ti rendeva diversa dalle tue coetanee? Beh, allora, intanto il primo fattore che rende differente, tra virgolette, diciamo, questo caso, è che mia madre non ha incontrato mio padre in Italia, ma fu durante un viaggio in Marocco, quando insomma, quando era giovane, che si incontrarono lì e poi vennero a vivere a Milano, sebbene si stesse molto molto meglio nelle temperature piacevoli del Marocco del Sud. Peraltro mio papà è stato uno dei primi stranieri in Italia, nel periodo in cui l'ondata, in cui, diciamocelo, cioè dire marocchino era ancora un insulto, no? Da attribuire a qualcuno del marocchino. Mi ricordo molti miei compagni di classe che prendevano proprio le note perché uno aveva dato, cioè perché avevano detto a un altro marocchino. Quindi bene o male, cioè, mi sono sempre fatta molte domande sul, cioè ci facevano cantare We Are The World, però poi mettevano le note. Questa è la tipica contraddizione del nostro tempo, no? Sì, è anche un'ipocrisia. Tutti, esatto, esatto. Per cui, cioè, poi in realtà io credo che i problemi, ho incontrato tante persone che, cioè, per esempio c'è una mia amica che è nata a Perugia da due genitori stranieri e per un però è nata qui per una serie di fatalità, ma proprio di sciocchezze, no? Tipo di assenza per più di 20 giorni dal territorio italiano, deve fare, cioè ha dovuto finalmente, è andata alla cittadinanza, ma ha dovuto fare il permesso di soggiorno, sebbene fosse appunto, cioè, più italiana di molti altri. Sì, noi qui ne sentiamo molte di queste storie, anche di persone famose che hanno dovuto così fare molte carte, molti passaggi burocratici per vedere riconosciuta un'italianità che, insomma, è nelle cose. Proprio perché sei milanese, io pensavo che il tuo cibo preferito fosse il sushi, il piatto tipico meneghino. Esatto, ormai, no? Anch'io sempre che no, però basta, insomma, ci sono più sushi che pizzerie ormai. Sì, e quindi almeno sorprendici con un risotto. Esattamente, sì, perché uno dei miei piatti preferiti in assoluto è il risotto in generale. Infatti è anche quello che cucino meglio. Se mi dai un sasso riesco a tirarti fuori un risotto anche da quello. La meraviglia, l'eredità della mamma. Ma più che altro sono le cose che impari a fare quando vai a vivere da solo presto, no? Che le varianti sono pasta col tonno, che non ho mai imparato a fare, e risotti con la qualsiasi. Dopo i primi esperimenti di osceni chicchi scotti mi sono specializzata. Quindi il tuo piatto, diciamo, che ci presenti è un risotto? Sì, un risotto al pomodoro. In un'epoca in cui tutti facciamo i fenomeni a cucinare arance, melograni, eccetera, io torno alla semplicità. Ma è una cosa che ti piace cucinare? Io non riesco a vederti cucinare, ai fornelli, devo dire, sei molto diva. Ma no, anzi, a me piace moltissimo cucinare, stare in cucina. Anzi, trovo che i momenti di svago meglio riusciti sono quelli in cui con magari altri amici si sta, cioè ci si rimpossessa della casa e si sta magari pomeriggi interi a preparare un po' torte. Insomma, preparare ognuno qualche cosa e poi alla fine della giornata viene una bella tavolata. Tipo quella della copertina del mio album, quindi mi piace tantissimo concettualmente invece. Tre sono le cose che devo ricordarmi di fare quando come una luce entrerai. Nel video di questa canzone di qualche tempo fa, infatti, tu sei in cucina con un grembiule. Esattamente, esattamente. Sì, proprio per, insomma, per quello che dicevamo prima, che, insomma, a parte che questo video prende ispirazione da un film di Godard che è La donna è donna. E quindi in realtà voleva ispirarsi a quello, però l'idea del rimpossessarsi della cucina come spazio di aggregazione insomma è una mia piccola ossessione, ecco. Sì, poi il video è appunto molto glamour, molto milanese, di atmosfere di anni fa, ed è molto bello, mentre nel video di E se poi tu sei vestita da sposa, ed è un omaggio chiaro a Pippa Bacca, no? L'artista milanese che attraversò in autostop diversi paesi, teatri di conflitti armati anche, e come ci ricordiamo finì tragicamente quel progetto artistico. Lei fu violentata, uccisa in Turchia proprio da un autostoppista. Perché hai voluto fare questo omaggio? Ma allora, in realtà la cosa è venuta proprio per caso, nel senso che io penso che il progetto di Pippo fosse talmente alto che sinceramente io non posso neanche cercare di avvicinare, cioè davvero lei ha fatto, insomma, ci ha giocato la vita proprio, no, per un messaggio così importante. Quindi mentre ci stava venendo l'idea a me, Federico Brugia, il regista, di sfruttare gli spazi in cui ci trovavamo in ogni parte del mondo, no, perché quello è un video girato molto in maniera molto domestica, se vogliamo, quindi artigianale, con una macchina da presa, pronti via proprio, no, in due, senza troupe, niente. Quindi nel momento in cui abbiamo deciso di sfruttare l'ambientazione, insomma i paesaggi che avevamo a disposizione come reale trama di un video, è appunto venuto molto naturale l'idea di riprendere quello che secondo me nella nostra epoca è uno dei viaggi più importanti compiuti dall'uomo. Sì, è un video molto molto particolare, molto bello, è bello anche questo omaggio. Come avrai capito, passiamo da Palo in Frasca, quindi dalla cucina Madonna, alla bene, musica così, a questi cucina. Questa immagine, siamo in cucina d'altra parte. Senti, cosa c'è sempre nel tuo frigo? I pomodorini, che però vanno a male, nel senso che ne compro tantissimi e poi rimangono lì sistematicamente, quando ne ho veramente voglia sono tutti aggrintiti. E dei ricordi del paese d'origine di tuo padre, del Marocco, hai trattenuto qualcosa dal punto di vista della cucina, dei gusti? Ma allora, a me piace tantissimo la cucina marocchina, però è anche una di quelle che richiede una capacità, cioè non ti puoi improvvisare, in quel caso le ricette sono molto da seguire con estrema disciplina. Infatti se devo andare a mangiare marocchino telefono a casa del babbo e mi presento pronta a divorare quantità ingenti di piatti. Perché tuo padre cucina marocchino abitualmente? Sì, lui poi è una compagna straordinaria che ha delle mani che non so come fa, cioè comunque cosa tocchi diventa deliziosa. Io ho letto un'intervista nella quale dicevi: sono fiera del mio meticciato, sono cresciuta con una nonna che faceva il pane sul pavimento e le mani dipinte di Enè, e una con la Moncler, le Timberland. Sì. Rendeva bene l'idea, insomma, di questo mix di culture. Oh sì, ma io penso davvero che sia proprio un patrimonio grande. E più passano gli anni, poi più penso che in realtà l'Italia è un po'... Cioè, a Milano sono pochi quelli che hanno entrambi i genitori milanesi, eccetera, eccetera. Quasi nessuno penso, ormai, sì. Esatto, penso che sia proprio una caratteristica del nostro paese in realtà avere dei miscugli, insomma, già avere una nonna pugliese o calabrese, insomma... E avere qualcuno del sud in termini geografici, cioè per quelle che sono anche le tradizioni locali, insomma, arricchisce di grandi diversità. Pensa al Trentino e alla Sicilia, no? Che cosa... Quando eri piccola dicevi che il termine marocchino veniva vissuto con una certa così connotazione negativa, anche se poi in realtà gli africani del Nord Africa negli anni 70 venivano in Italia ed erano gli intellettuali. Poi è cambiata in effetti un po' questa visione. Adesso, secondo te, quando senti per strada qualcuno che insulta una persona extracomunitaria, a patto che anche il Papa è extracomunitario ormai, quindi siamo tutti un po' stranieri? Ma anche il fatto che extracomunitario venga usato come... no, ma è proprio un utilizzo... Ti dà fastidio comunque? Ma io non sopporto che si usi il termine, l'aggettivo extracomunitario, come un aggettivo negativo. Cioè, per esempio, a uno statunitense si dice statunitense, cioè è una roba bizzarra. A un giapponese si dice giapponese. L'extracomunitario va a intendere normalmente, insomma, persone in cerca di fortuna che viene probabilmente da zone più povere del mondo, che poi anche lì tutto molto relativo. Tu hai qualcosa che arriva dal papà, dalle musiche che sentiva il papà? Ma allora, a parte che io sono cresciuta dividendomi stagionalmente in un paese o l'altro, quindi penso che tutto quello che è, cioè soltanto il fatto che si preghi cantando in Marocco, che comunque c'è un muezzin che ogni a intervalli regolari canta e invita la gente alla preghiera, penso che siano delle cose che ti restano dentro. Poi io penso che in realtà più che la musica tradizionale siano proprio, cioè credo i dischi che uno ha in casa e quello che ascolta durante la propria esperienza condizionare, cioè penso che mi abbia condizionato più vedere un cielo, un paesaggio marocchino, no, di quanto invece sentire, che ne so, l'orchestra berbera. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Thank you. offrire un caffè. Siamo qui a bere il caffè, a cucinare con Malika Ayan, che è una grandissima artista. Questa canzone l'hai presentata e ci hai giocato molto, hai anche ballato al Festival di Sanremo. Oh sì, è una canzone che io amo molto e che mi piace per la sua leggerezza, insomma, è una dichiarazione d'amore davvero di altri tempi. Mi piace l'idea di utilizzare il palco in più modi possibili. In fondo il varietà, la nostra storia televisiva è anche quello, no? E soprattutto penso agli spettacoli degli anni 50-40, sì. Insomma, nei casinò, quando Sinatra e i Rat Pack, insomma, ballavano il tip tap, era bellissimo. Quindi, insomma, bisogna imparare, secondo me, da quel tipo di esperienza. Da poco è scomparso Iannacci. Tu lo ascoltavi in casa a proposito di milanesità? Ma guarda, allora l'ascoltavo, cioè è una di quelle presenze, Iannacci, che dall'infanzia, cioè, ricordo di mia madre che lo ascoltava e di come crescendo, insomma, cioè, c'è la segnaletica, mettiamola così, ci sono le storie ufficiali, quelle da libri sulla città, e poi c'è questo modo di narrare parallelo, no? Come se fossero dei cartelli stradali, però su una parte più esistenziale, su quella che è il percorso nostro, normale, perché racconta delle cose che se sei di Milano riesci, cioè ti colpiscono emotivamente. Hai debuttato anche l'anno scorso sul grande schermo in Tutti i rumori del mare, l'opera prima di tuo marito, prima lo citavi, no? Vorresti ripetere questa esperienza? Ti è piaciuto? Parlavamo della tua esperienza, diciamo così, da interprete ballerina, ma anche come attrice. Ma sarebbe interessante, però ovviamente come tutto bisogna prima studiare e prepararsi bene. Mi piace pensare a Liza Minnelli o a Barbara Streisand che facevano tutto, e anzi penso che dovremmo tornare un po' al musical sul grande schermo. I come from some form of sweet intelligence, the boundary for ends. I'll drink some water, please. No risk in no champagne. I'm a little brown bird. I'm a little brown bird. I am a little brown bird. Malika Ayan è con noi quest'oggi. Questa collaborazione è con Conte, una voce proprio da diva internazionale. Una bellissima canzone, una bella collaborazione, immagino anche. No, vabbè, questa canzone era tanto poi che non la sentivo, quindi grazie. Ed è, io sono tanto orgogliosa di questa cosa, anche perché poter lavorare con Paolo Conte piuttosto che con Francesco De Gregori, no? Ultimamente, sì. Permette di avere un contatto diretto con quella che è la storia della nostra grande musica, perché a volte tendiamo a, come posso dire, a sminuire, no? La nostra, cioè siamo i primi nemici di noi stessi, quando invece guardando un pochino più da vicino non abbiamo non del potenziale da invidiare all'estero. Insomma, abbiamo un sacco di artisti straordinari. Sì, poi Conte è molto sofisticato, ti si adatta bene, però appunto citavi anche De Gregori con queste ultime collaborazioni che hai fatto con lui, no? Ah beh, io ancora mi devo riprendere, perché Paolo Conte finalmente com'è stato questo incontro? A tornare a camminare dritta. Vabbè, praticamente Francesco De Gregori in un tour aveva come pianista il mio direttore musicale, che è Carlo Gaudiello, e quindi tramite lui mi ha contattato un giorno. Io pensavo fosse uno scherzo, sai quelle cose, no? Mi dice sì, c'è De Gregori che mi vuole per il suo disco, e io non ci credevo. E quindi lui, semplicissimo, no? Con quel pragmatismo che solo gli uomini di altri tempi hanno, mi ha chiesto se andavo a cantare per lui in questo album nuovo, e così è andato. Cioè, sono andato un giorno in studio, lui super carino, e ecco, quindi adesso devo riprendermi, appunto, ancora sotto il shock. Parliamo di quest'album e anche del tour che parte ad aprile. Il nome Ricreazione, come mai? Ma ricreazione perché ho pensato, intanto appunto all'atto di divertirsi, no? Dove appunto ci si diverte e si lascia un attimo andare, si lascia il freno un attimo, così come contemporaneamente l'atto di creare di nuovo, senza ovviamente no, prendersi troppo sul serio, però essendo questo un album autoprodotto che è stato realizzato con una modalità diversa dagli altri due e anche insomma con qualche annetto in più d'esperienza, è stato come riprendere tutto quello che ho imparato fino a un certo punto, rimetterci mano e cercare di mettere le basi per quello che sarà il futuro. So che hai suonato da poco a Padova e comincerà il tour tra poco. Com'è suonare dal vivo, cantare dal vivo? Ma cantare dal vivo alla fine è la cosa più gratificante di questo lavoro. Infatti spesso per ironizzare mi dicono: guarda, il tuo lavoro inizia quando scendi dal palco e vai, affronti e parli con la stampa, quando fai promozione, quando fai le cose meno divertenti. Il palco è una cosa che ti toglie il fiato dall'ansia, no? ti agita tanto, ma contemporaneamente è quella che ti regala in assoluto di più. È il tuo lavoro, è quello che senti più forte. È la cosa forte. Bella, perché cioè, sul palco riesci a creare un mondo, un piccolo mondo immaginario dove fai cadere la gente insieme a te, se riesci a riuscire a stabilire un rapporto attraverso questa energia che non è verbale, non è esclusivamente musicale, insomma è proprio cioè, una spirale emotiva in cui ci si trascina reciprocamente pubblico, musicisti e me. Qual è la prima tappa del tour? Partiamo da Brindisi l'11 aprile e poi in realtà Padova era una data di presentazione, ma la data vera sarà al Gran Teatro Geox il 26 di aprile. Verremo senz'altro ad ascoltarti, intanto sentiamo le tue ricette. Risotto al pomodoro. Ingredienti per 4 persone. 400 g di riso carnaroli, 400 g di pomodorini ciliegia pelati, 1 litro di brodo vegetale, una cipolla, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 40 g di parmigiano reggiano, 30 g di burro, qualche fogliolina di basilico, sale quanto basta. Soffriggete una cipolla tritata finemente in 3 cucchiai d'olio, fino a che non diventa trasparente. Versate il riso e fatelo tostare per un paio di minuti. Sfumate quindi con un mestolo di brodo vegetale e lasciate evaporare. Aggiungete i pomodorini pelati ai quali avrete aggiunto un cucchiaino di zucchero per togliere l'acidità. Mescolate bene e incorporate un mestolo di brodo. Continuate a incorporare brodo ogni volta che il risotto si asciugherà, fino a fine cottura. Quando la cottura sarà quasi ultimata, aggiungete del basilico tritato e aggiustate eventualmente di sale. Togliete quindi la casseruola dal fuoco e mantecate con il burro e il parmigiano grattugiato. Servite il risotto al pomodoro ben caldo e guarnito con qualche fogliolina di basilico. La puntata di oggi termina qui, io ringrazio la nostra ospite graditissima Malika Ayan, grazie per essere stata con noi, buon appetito. Oh, buon appetito. Ringrazio in regia Roberto Scaltritti, da Valentina Furlanetto è tutto, mi trovate anche su Twitter @valfurla e trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buon appetito a tutti e ricordate che i gusti cambiano. You've got to give a little, that's the glory of love.